raggio di luna che accendi la notte, poi dove vai? Pallido sole che dondoli sogni, che segreti hai? Ogni sera tu sali lassù, ma al mattino non ci sei già più. Dove vai? Raggio di luna che rendi la notte romantica, con quella luce che avvolge la sera bianca e pallida. Sailor Moon, hai la luna in te, principessa di un regno che non sai dov'è. Sailor Moon, sempre magica. Sailor Moon, Sailor Moon, sei fantastica. Sailor Moon, amica Sailor Moon, con la luna sai, vedi sempre dove vai. Più che mai. Raggio di luna che vinci da solo l'oscurità, col tuo brillare fai dolce la luna per l'umanità. Sailor Moon, hai la notte in te, principessa di un regno che non sai dov'è. Magica. Sailor Moon, Sailor Moon, sei fantastica. Sailor Moon, amica Sailor Moon, con la luna sai, vedi sempre dove vai. Scura più che mai. Sempre dove